Si chiama Gabriella, le piace far la bulla. Non fuma le mentola, si fa bruciare la gola. Per la miseria che dritta, se vede un fusto si butta. Si mette a fare la gatta, gli fa venire la cotta, ma senza la Giulietta niente da fare. Lei vuole il tipo sui 30, capelli tinta polenta, con la guardata da tonto, meglio se violento, che sappia far la grinta, se vuol baciare. È una donna con le gambe supersoniche, ha le curve del circuito di Indianapolis. Se ti bacia quando bacia sono brividi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bella, bella, bella, bella, per la miseria che dritta. Cintura nera di lotta, ha fatto fare una brutta. Ha già faccia di latta che vuole far la sfida, ballando e rock. Supersoniche, ha le curve del circuito di Indianapolis. Se ti bacia quando bacia sono brividi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bella, bella, bella, bella, per la miseria che dritta. Cintura nera di lotta, ha fatto fare una brutta. Ha già faccia di latta che vuole far la sfida, ballando e rock, ballando e rock.